tutta la stanzurella fredda e scura, ad una volta incetra se va sole. Mo stengo io solo tengo una paura, a poco me consumator. Paura che mi struie malattia, senza vede ch'io a Napule, senza vede ch'io a te. Vorria tornato te, e non la sola Napule mia, per te sentire cantare con mille mandoline, furia tornando te, con mano vuota, amore mio, e te poteva sa, e me senti abbraccia, dem dia feliz che te do. O sol no sol surgir, em cada cor brillò, volto al sogno tal, al corazón. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia verá. E nossa manhã tal bela final. De carnaval canta o meu coração alegria voltada feliz a manhã desse amor. Depois deste dia feliz não sei dia real. E nossa manhã tal bela final manhã de carnaval canta che ti adoro in nome di questi amori per tu bien te dico addio. ti adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Soldiers passing by, listen.

내가 살아가는 돈 안에 하이리 또 하나 있지 바람 부는 벌판에서 미쳤고 나는 외롭지 않아 우르나 손이 바라 떨어지면 눈물 다 흐르고 그리다는 가슴 가슴마다 햇살은 다시 돌네 Volver a ser niños vez otra vez. Volver a sentir a Dios, volver a olvidar lo que se fue. A volar, sal en busca de mi amor, vuela más allá del mar. Si la llegas a encontrar, cantaré de mi pasión. 不断的离水哟。不住的金山隐隐，流不断的绿水哟。

rallentare il tempo che non passerà. Resta qui. Questo è il mistero.

che il tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso.